Salutiamo gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Oggi siamo qua con Guglielmo Pagnozzi, che ha fatto uscire da qualche giorno il nuovo album Gentle Heartquakes. Intanto grazie per essere qua. Sì, grazie a voi, buongiorno a tutte e a tutti. La prima domanda che le faccio è: da cosa le è venuto il titolo di questo album? Ho visto che ha detto che ha sanato i mostri e le paure dell'inconscio per trasformarli in gentili, appunto terremoti del cuore. Quali sono stati questi mostri e come le è venuta l'idea di questo titolo, insomma? Sì, il titolo è chiaramente un gioco di parole, no? Sulla parola inglese terremoto. Remoto, scossa di terra, diciamo, la parola terra, ho sostituito la parola cuore, per cui è venuto fuori questo gioco di parole, terremoto del cuore, ma gentile, cioè dolce, quindi il significato del titolo è questo. E come mi è venuto in mente? È venuto in mente un po' in maniera spontanea durante l'elaborazione di quest'opera, in quanto è stata un'opera che io ho realizzato con un intento terapeutico, oserei dire, tra virgolette, in quanto ero nel pieno di una crisi, di un trauma dovuto a un lutto molto importante che avevo appena vissuto da poche settimane. Ho sentito la necessità di chiudermi in uno studio a tirar fuori quello che sentivo ribollire dentro. Ho notato che in quel momento la mia condizione psichica mi permetteva di tentare un esperimento di lavorare sulla musica che sgorgasse direttamente dall'inconscio, in quanto me lo sentivo proprio a fior di pelle tutti i giorni. E in un certo senso ne ho approfittato per vedere di sfogare tutta questa emotività così che mi travolgeva, di sfogarla e di darle una forma musicale. In quei giorni, naturalmente, i miei pensieri erano cupi, erano avvolti in una nube nera, ed erano pensieri chiaramente profondi, legati alla vita, alla morte, al significato, al senso e tutte le paure che si porta dietro questa disamina ogni volta che un essere umano la conduce approfonditamente, incontra le proprie paure, naturalmente. Questo intendo dire quando parlo di questo disco come di un qualcosa che tira fuori le paure dall'inconscio, portandole a una dimensione musicale, in qualche modo le ingentilisce. Ecco, per tornare al titolo, le propone in una versione più gestibile, diciamo, dalla nostra emotività. Insomma, classica funzione catartica dell'arte, diciamo. Certo. È il percorso di, in un certo senso, anche di, tra mille virgolette, redenzione dalle proprie paure, dai propri demoni. D'altronde questi demoni, se non ci fossero stati, non avrebbero poi generato quel flusso di scrittura automatica musicale che determina la forma del disco. Certo, lavorare da solo, ha lavorato spesso con altri musicisti, insomma, com'è lavorare da solo rispetto a in gruppo? Beh, allora, lavorare da solo è una dimensione molto congeniale, perché insomma, il mio primo obiettivo fin da bambino era dedicarmi all'arte visiva, quindi un percorso completamente diverso da quello che sono abituati a fare i musicisti, che si ritrovano obbligatoriamente a lavorare in gruppo. E quindi diciamo che è una cosa che mi è rimasta sempre come intento e come intenzione di sviluppare anche una mia dimensione in solo. Cioè di suonare completamente da solo. Questo disco non è fatto da solo, eh? È il primo disco che pubblico a mio nome e non a nome di una band, ma ci sono dei musicisti con me e sono dei musicisti con i quali io, all'epoca in cui ho registrato quest'album, con i quali già lavoravo da più di 10 anni, e ho chiamato loro proprio perché erano gli unici che mi conoscessero così bene dal punto di vista musicale, potevano permettermi di fare questa esplorazione con pochissime indicazioni. Insomma, le parti che io ho portato in studio preparate, scritte addirittura, erano veramente ridotte all'osso, erano più che altro delle indicazioni da cui partire per questo flusso di coscienza, diciamo, per questo flusso di scrittura automatica musicale, e l'ho fatto con loro. C'è da dire che in quei giorni, quando mi sono chiuso in studio, in realtà io sono stato 3 giorni in studio e i primi 2 giorni ho realizzato tutta una serie di take completamente da solo, in elettronica, strumenti a fiato, eccetera, che sono peraltro pubblicate, penso fra un po' saranno anche su Spotify, comunque sono già in Apple Music. È un po' il disco parallelo e gemello di questo. E lì, nella dimensione completamente da solo, ho ritrovato un po' quello che sentivo quando ero bambino, ragazzino, quando mi mettevo a disegnare, creavo le mie tavole, quindi il cerchio si concludeva tutto all'interno di me stesso, senza una condivisione. E la cosa bella è stata lavorare il terzo giorno insieme ai musicisti, e quindi diciamo che questo cerchio si è aperto a quello degli altri, abbiamo creato un altro cerchio in cui eravamo contenuti tutti noi 5 che abbiamo registrato questa cosa. Rimane una musica vista dal punto di vista dell'interno, è come la musica la vedo io da dentro. Quindi non ci sono compromessi, non ci sono aggiustamenti, non c'è nulla di sacrificato, ci sono vari momenti massimalisti, cioè in cui c'è tutto, proprio perché questo tutto non è stato raffinato, non avevo una destinazione d'uso, non serve a far ballare, non avevo una destinazione chiaramente commerciale, era soltanto una fotografia, se così si può dire, della musica vista dall'interno. C'è qualche presa di posizione dietro la scelta di mettere il discorso di Jenin all'Armata Rossa nella canzone che dà il titolo all'album? Sì, diciamo che un po' nel mio fare artistico da tanti anni ormai c'è sempre una presa di posizione a monte, nel senso che non ho mai nascosto le mie idee sulla società, sulla politica, eccetera, e quindi questo me lo porto dentro inevitabilmente, ma non era una vera e propria presa di posizione. E in realtà quel brano che è nato mentre la composizione, c'è una parte composta che è soltanto l'inizio, che è venuta veramente mentre stavo uscendo sulla porta di casa. Anche questo è uscito così, in maniera inconscia, sgorgato, in maniera spontanea dall'inconscio. Ho composto questa cosa, queste note, questo giro di basso, quest'idea di una batteria, questo pezzo così molto forte, molto intenso, quasi virgolette violento, ma era un periodo in cui ero immerso nelle riflessioni derivate dalla lettura del Secolo Breve di Hobsbawm, e diciamo che a livello proprio simbolico mi è venuto naturale mettere questo estratto della voce originale di Lenin che fa il discorso all'Armata Rossa. Diciamo che è più un omaggio a Hobsbawm e al libro Il Secolo Breve. In quel periodo poi avevo realizzato colonna sonora, diciamo avevo risonorizzato Ottobre di Eisenstein, e lì già avevo usato, lì per questioni più didascaliche, questo discorso di Lenin, quindi era qualcosa che mi girava già in testa e ho poi messo anche in questo brano, però viene da lì, ecco. Questa non è una dichiarazione politica, in altri dischi ho fatto brani in cui mi espongo molto di più. Hai in programma magari un piccolo tour, qualche concerto live per questo progetto? Sì, nella mia mente è chiaro che l'ambizione di ogni musicista è quello di portare in giro la propria musica, e non lo so, però di programmi adesso non ce ne sono. In realtà adesso pubblichiamo, cerchiamo anche di diffondere un pochino la notizia, appunto, che questa musica esiste, ha preso una vita, ha preso una forma ed è possibile quindi portarla in giro anche dal vivo. Ma al momento, sotto questo aspetto, devo dire la verità, ahimè non c'è nulla. Perché è un momento anche un po' difficile forse di ripartenza, in cui c'è ancora un po' di confusione nell'organizzare le cose. Spero vivamente, insomma, che adesso che il disco si può anche sentire su tutte le piattaforme gratuitamente, insomma, chi è interessato può andare un po' a curiosare e magari viene voglia. Io l'ho segnalato ai festival, insomma alle agenzie che preparano le cose per l'estate. Insomma, spero vivamente che questa musica venga portata in giro dal vivo, assolutamente. E se non sarà questa, saranno altre cose, di sicuro, ecco.